Ciao Cri, ciao a tutti. E niente, la conferenza stampa giornaliera che in Italia fanno, sai, la protezione civile, il Presidente del Consiglio da voi nel tardo pomeriggio, qui a New York la fa la mattina alle 11 puntualissimo il governatore Andrew Cuomo, e insieme a un paio di responsabili di sanità, logistica, cose così. Andrew Cuomo è diventato nelle ultime settimane, nelle ultime 2 settimane alla fine, un beniamino proprio del pubblico, un eroe per tantissimi. Si è guadagnato rispetto sia dei repubblicani che dell'ala più a sinistra del partito. Lui in realtà è abbastanza un conservatore come democratico. E comunque l'hanno apprezzato tutti perché c'ha una bonaria fermezza con cui parla ai cittadini anche quando dà notizie, insomma, che non sono proprio le migliori da dare. E in realtà lo stato di New York, in particolare New York, la città, al momento sono il più grande focolaio del virus. Gli Stati Uniti hanno raggiunto e superato ogni altra nazione del mondo. Siamo a 150.000 casi confermati e 2.400 morti, quando ancora, tra l'altro, siamo all'inizio della curva. Ieri a New York si contavano 32.000 casi e quasi 700 morti. E solo un paziente dichiarato guarito. Il sindaco De Blasio invece è stato un po' accusato di aver rallentato le misure di sicurezza, ha chiuso le scuole solo il 15 marzo, mentre bar, ristoranti, cinema e teatri li ha chiusi il 17 e solo in effetti da domenica scorsa, domenica 22, Cuomo ha chiuso tutte le attività non necessarie. In realtà le resistenze del sindaco, per esempio rispetto alla chiusura delle scuole pubbliche, nascevano anche da una preoccupazione che sembra assurda, parlando degli Stati Uniti come prima potenza militare del mondo, ma la preoccupazione era quella che tantissimi studenti non avessero la possibilità poi di mangiare a casa se non andavano a scuola. Infatti le scuole attualmente sono comunque aperte, hanno un portone aperto dal quale gli studenti possono andare a prendere 3 pasti giornalieri, perché evidentemente c'è un numero effettivamente non trascurabile di famiglie che non è in grado di sfamare i propri figli senza l'intervento del sistema pubblico. Tornando al contagio, i dati qui a New York raddoppiano ogni 2 giorni e il governatore ha messo in atto quelle che sono le procedure di emergenza in questi casi, che prevedono l'impiego della Guardia Nazionale e dello Stato di New York, che ha già messo su un ospedale da 1.000 posti all'interno dello Javits Center, il posto dove fanno le fiere di varie a New York, e ha individuato altri 4 posti dove fare la stessa cosa, oltre a una nave militare, una nave ospedale che dovrebbe avere un'ulteriore capacità di 1.000 posti letto. Il problema è che, secondo il governatore, durante il picco serviranno almeno 140.000 posti letto, mentre la disponibilità cittadina è di più o meno 50.000 posti. Il sistema sanitario statunitense è completamente privato e tutto è ottimizzato al massimo della capienza, perché posti letto vuoti rappresentano un costo praticamente non tollerabile dalle aziende ospedaliere, quindi il sistema è tarato sulla normalità, non ha nessuna possibilità di fronteggiare un'emergenza. Dal punto di vista della percezione dell'emergenza, qui non c'è ancora il panico vero e proprio, cioè non ci sono file enormi nei supermercati, almeno dove vivo io, a parte appunto l'impossibilità di trovare la carta igienica, che è una cosa che fa molto ridere in Italia, ma qui in realtà è culturale perché sono abituati a emergenze di tipo meteorologico e quindi una delle cose che viene meno in genere è l'acqua corrente, la fornitura di acqua, e quindi scatta il meccanismo mentale nell'americano è quello di stare al sicuro dal punto di vista della carta igienica. E quello che fa impressione a New York, per esempio, dove c'è una alta percentuale di super ricchi rispetto agli Stati Uniti, è che sono fuggiti. I ricchi si sono riversati in un weekend, si sono rifugiati negli Hamptons, che sono la località preferita dai newyorkesi d'estate perché è vicino alla città, è una specie di una sorta di Fregene newyorkese. Credo che lo scopo principale sia quello di non dover subire l'onta di dover fare la fila nei supermercati o comunque di non avere i domestici. Però un altro aspetto legato a questa idea di quello che potrebbe essere lo scenario futuro, è che in alcune strade principali dello shopping di lusso alcuni negozi, e ho visto solamente delle foto, non ci sono stato di persona, hanno iniziato a schermare le vetrine con quelle strutture di legno da antisommossa, diciamo, in previsione immagino di un eventuale coprifuoco che potrebbe arrivare quando e se il picco determinerà un collasso del sistema sanitario. Questi sono gli unici due segnali di panico che si registrano al momento. Spero di aver dato un quadro generale e vediamo questa settimana come procederà la curva del contagio e quindi le misure relative. Grazie, ciao a tutti.